senza sudore lo sacco di domani horo a di urupi horo a di sudena masa di ngoluku ai horo tuhaku ai horo Hola.